la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon lunedì 26 di gennaio, oggi Tito e Timoteo sono i santi. Vado subito al dunque del tema, perché è una trasmissione per registrare, mettere a confronto le vostre opinioni, come facciamo sistematicamente chiamando le telefonate, quindi 800 24 00 24, 349 238 6666 per i messaggi. L'argomento è scontato, perché si tratta di capire come la pensate sul voto che si è tenuto ieri in Grecia, sulla vittoria di Syriza e del suo leader Alexis Tsipras, sul fatto che sia pur avendo mancato di due seggi la maggioranza assoluta del Parlamento, 149 rispetto ai 151 necessari, in pochi minuti questa mattina Syriza e Tsipras hanno sottoscritto un'alleanza di governo con un partito di destra anti-euro che ha superato di non troppo il limite del 3% necessario per entrare in Parlamento, e con quei 13 seggi in più, quindi 149 più 13, è già nato e ha già giurato il governo di Alexis Tsipras. Come sapete, il programma su cui Syriza ha polverizzato il tradizionale Partito Socialista, il PASOK, nelle ultime tre elezioni, con questa al 2012, poi alle europee e oggi, totalizzando il 36,5% dei voti, è un programma che mette alle corde, per così dire, tutto ciò che in questi anni di eurocrisi è stato fatto dall'Unione Europea, e quindi è una grande prova della verità, per così dire. Questo è il motivo per il quale io stamattina ho scritto su un giornale, per il quale scrivo, che mi auguravo che ce la facessero a fare il governo, e anche che a questo punto Tsipras sia coerente con tutto quello che ha detto in campagna elettorale, cioè che non attenui, per così dire, le sue richieste. Allora, io adesso ve le riepilogo brevemente, in attesa che iniziate a telefonare e a dire come la pensate, per dire non solo se ha ragione e bisogna dargli retta, ma ci sono tanti problemi connessi a questo. In sintesi, che cosa propone il presidente del Consiglio nuovo greco? Ricordiamoci i fatti. Allora, la Grecia nei primi 8 anni dell'euro, dal 2001 al 2008, fa più o meno quello che ha fatto l'Italia, cioè approfittando dei bassissimi tassi di interesse consentiti dalla moneta unica, perché noi pagavamo il 12% l'anno e siamo scesi a pagare meno del 5% l'anno, ecco, i greci hanno fatto come noi, cioè spesa allegra, ma l'hanno fatta molto più di noi, perché noi siamo saliti dal 100 e qualcosa per cento di debito pubblico sul PIL al 135 attuale. Loro, quando esplode l'eurocrisi alla fine del 2010, avevano raddoppiato il loro debito pubblico, cioè erano passati dal 150 al 330% del PIL. Non erano più in condizioni di andare avanti quando inizia la danza degli spread, cioè quando i mercati iniziano a differenziare il premio al rischio sovrano e iniziano a scommettere su chi non ce la fa più. A quel punto non erano in condizioni di sorreggersi, e allora a quel punto, tra il 2011 e il 2012, la Grecia diventa soggetto che incamera tanti aiuti quanti l'Unione Europea non ne ha riservati a nessun altro, neanche alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda, che finiscono anche loro sotto programmi pluriennali di osservazioni e di riforme coatte, ma la quantità di aiuti riservati alla Grecia, che aveva anche, per così dire, raccontato storie sul proprio deficit nell'ordine di quasi 10 punti di PIL, non ha eguali nei confronti di tutti gli altri paesi. Perché? Vediamolo. Perché la Grecia diventa a quel punto destinataria di poco meno di 250 miliardi di euro, tra garanzie sul debito, sostegni alle banche, sussidi diretti, promesse di investimento. Cioè è come l'Italia, fatte le giuste proporzioni sulle differenze economie, avesse avuto aiuti dall'Unione Europea per 1200 miliardi, capite? Ecco, questa prima cosa. Seconda cosa, ottiene un consistentissimo abbattimento del suo debito pubblico, perché viene presa la decisione di tosare di più del 50% il valore del debito detenuto da tutti i privati, gli obbligazionisti privati che avevano in mano, quindi banche private e risparmiatori, titoli del debito greco, più del 50%. Questo è il motivo per il quale a oggi il debito pubblico greco, comunque elevatissimo, intorno al 175% del PIL, non è al 400% del PIL. Ottiene la Grecia inoltre una ristrutturazione del suo debito, quindi fa due volte default tra 2011 e 2012, e grazie a questo la durata media dei titoli del suo debito oggi esistente è passata alla bellezza di 16 anni. Ricordo che i nostri erano 7 anni di durata media del totale dei 2.100 miliardi a cui ammonta e più il debito pubblico italiano, era di più di 7 anni prima della crisi. Nella crisi, grazie a una grande maestria tecnica del tesoro, siamo scesi un po', siamo a 6 anni, ma la Grecia li ha ottenuti di 16 anni, perché la Grecia nel frattempo non poteva andare sul mercato, o meglio, ha emesso un titolo l'anno scorso giusto per vedere che per dimostrare che stava uscendo dalla crisi, perché in effetti da tre trimestri il segno è tornato positivo dell'economia greca e ha un più 0,7% tendenziale. Tenete conto però che la Grecia ha perso, noi abbiamo perso 9 punti di PIL negli anni di crisi, lei ha perso più del 25%, il 26%, però era e non è in condizioni di tornare sui mercati la Grecia, malgrado tutto questo. Nel frattempo la Grecia ha dovuto assumere decisioni brutali sull'andamento della sua finanza pubblica, perché era la pubblica amministrazione dello Stato più scassato d'Europa, si andava in pensione con l'età più bassa d'Europa, produttività bassissima, sapete che l'economia greca si fonda sul turismo ma esporta pochissimo. Detto tutto questo, i suoi sforzi infernali li ha fatti, perché l'abbattimento sul reddito dei greci di tutte queste misure di tagli alla finanza pubblica, alle pensioni e così via è stato brutale, perché si trovano con una disoccupazione che è doppia della nostra, che è pure elevatissima e ci fa gridare giustamente allo scandalo. Noi siamo oltre il 13%, la loro è doppia. E c'è quindi un fenomeno di impoverimento a breve consistentissimo. Questo ha dato, il, per così dire, il serbatoio elettorale a Syriza e Tsipras per vincere, e la loro richiesta è quella di abbattere di un ulteriore 50% il debito pubblico, che però dopo la tosatura data ai privati è per l'80% nelle mani degli euromembri, dei paesi dell'Unione Europea e della BCE. Il Fondo Monetario ha pochissimo di tutto questo. Per l'Italia l'esposizione sul debito pubblico greco attuale è di circa 40 miliardi, quindi se approvassimo la richiesta di Syriza ce la rimetteremmo 20, non è proprio poca cosa, 20 miliardi è 1,3 punti di PIL, per capirci, quindi non è proprio poca cosa. E a quel punto la domanda, una serie di domande che vengono è: ma se passa questo principio per la Grecia, perché non deve passare anche per gli altri eurodeboli? Punto numero uno. Punto numero due: come si spiega il fatto che da noi a festeggiare per la vittoria di Tsipras siano da una parte i PD, capisco la sinistra antagonista, Sel, Vendola, ma che il PD si congratuli quando il PD vota in Italia e propone col suo segretario premier leggi di stabilità che alzano le tasse retroattivamente sul risparmio, sulla casa. Quando dico retroattivamente significa che lo fanno sull'anno precedente. Io ricordo a tutti che sul risparmio dal 2011 al 2014 siamo passati sul solo risparmio per effetto della nuova tassazione a pagare da 6,9 miliardi nel 2011, sul risparmio ne paghiamo 14 nel 2014, sulla casa lo sapete benissimo, da 9,8 miliardi nel 2011 ne paghiamo 27,28 nel 2014, motivo per il quale è svanito un decimo della ricchezza degli italiani, circa 800 miliardi, fonte Banca d'Italia, e due terzi di questo, cioè oltre 600 miliardi, dipende dall'abbattimento del valore medio del patrimonio immobiliare pro capite. Allora, capite bene che chi in Italia propone queste leggi di stabilità fatte con aggravi fiscali, sì, c'è anche il bonus 80 euro, ma però aggravi fiscali e poi ci dice che dal 2016 al 2018 ci sono altri 30 miliardi di aggravi di clausole di garanzia IVA e accise. E come fa contemporaneamente a proporre queste cose, cioè più tasse in Italia, e a dire contemporaneamente che ha ragione Tsipras quando in Grecia la pressione fiscale è 10 punti più bassa della nostra? 10 punti più bassa della nostra, loro è al 34% del PIL, la nostra è al 44%. Gli stessi che battono le mani da sinistra a Tsipras in Italia dicono che bisogna ulteriormente alzarla. Altra domanda: che senso ha vedere pezzi della destra in Italia, ma non solo in Italia, anche in Francia e altrove, che battono le mani a Tsipras quando loro hanno fatto più spesa pubblica, e cioè hanno fatto la stessa politica che ha portato la Grecia a sbattere e che ha portato l'Italia a non passarsela troppo bene? Allora, per questo io dico, fine della mia lunga introduzione, è un bene che Tsipras ponga il suo problema duro e puro, così capiremo infine e brevemente, ben prima che si vedano gli effetti di 2 anni di Mario Draghi, cosa l'Europa risponderà. Perché questa volta non si può prendere tempo. Tsipras ha detto, facendo un'alleanza con un partito di destra autarchica e antisionista e antiebraica, quindi non mi piace per niente questa cosa, però è corrispondente al fatto che anche in Italia e in Francia la destra applaude a Tsipras. Ha detto che lui non fa sconti, quindi lui chiederà esattamente le cose che ha chiesto in campagna elettorale, e almeno capiremo a questo punto se ha un senso continuare in Italia a essere strangolati con avanzi primari raggiunti attraverso stangate fiscali, oppure se chi ce le propone qua e poi batte le mani a Siriza che dice il contrario, si dia una regolata, e soprattutto la diano anche a noi, perché altrimenti noi facciamo la parte di chi aiuta, stando noi male, chi sta certo peggio, ma noi seguendo una linea politica che è l'esatta opposta di quella che vuole Siriza, e siamo quindi in totale contraddizione. Un po' di chiarezza. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16:46-37 secondi dagli studi Radio 24 qui di Milano. Parliamo della vittoria di Tsipras e di Siriza in Grecia e vi abbiamo chiesto la vostra opinione, che impressione avete di fronte a questa richiesta di procedere al terzo default assistito però in 3 anni alla Grecia, con una quantità di risorse mobilitate che sono i fatti, i numeri a dirlo, tutti gli altri paesi, e soprattutto quelli altri eurodeboli, non hanno avuto in proporzione, ma non hanno avuto minimamente rispetto alla Grecia. La Spagna, che pure ha avuto una 50 di miliardi a disposizione per le sue banche, si è fermata lì. Noi praticamente nulla, come sapete, tranne, ricordiamolo, 103 miliardi di titoli però del debito pubblico italiano acquistati dalla BCE nel 2011-2012 per evitarci di finire gambe all'aria quando ci fu la crisi del governo Berlusconi. Inizio a leggere un po' dei vostri sms e poi passiamo alle telefonate. Ci dice per esempio Adolfo: ma se l'Europa taglia i fondi alla Grecia, sono comunque alla canna del gas, quindi stanno bluffando e scherzando con il fuoco. Questo pensa Adolfo. Altri, la maggioranza, la pensano contrariamente rispetto ad Adolfo. Per esempio, quando la gente muore di fame e non si cura, non c'è bilancio che tenga. Altri aggiungono anche punti di stima per i greci, di invidia quasi. Per esempio, ne leggo uno: almeno i greci sanno farsi rispettare, noi invece ci lasciamo sbattere al muro, dall'immigrazione alle manovre finanziarie. Ulisse si chiede: la Grecia vuole uscire dall'austerità, capisco, ma con i soldi di chi? Questo loro lo dicono, con i soldi, no, non nostri soldi, gli italiani, ma di tutta l'euroarea. Invocano un principio di solidarietà, chiedono una conferenza internazionale di abbattimento del debito, non solo per loro ma anche per noi, gli spagnoli e così via. Quindi in sostanza coi soldi nostri, soprattutto dei tedeschi, come è ovvio, questo è il punto fondamentale. Dice Tiziano: caro Giannino, grande invidia per la Grecia, ma non per questa vittoria, per il fatto però che in un giorno il governo greco è operativo. E Tiziano coglie un punto mica secondario, sapete. Complimenti a Tsipras, ci dice X, e al popolo greco, finalmente gente con i coglioni, leggo testualmente, che si libera dal cappio dei banchieri della UE. Prendiamo un esempio. Altri ancora: il risultato greco dimostra che destra, sinistra, centro non contano più un cavolo, servono leader con le palle che sfidino la dittatura economica di Bruxelles. Ne leggo solo un altro paio, poi andiamo alla telefonata, perché la stragrande maggioranza sono come questi, però. Oscar: purtroppo in questo paese marcio conta solo la facciata, quindi passano i Renzi che fanno cose ma dicono il contrario. Questo è sulla contraddizione di battere le mani a Siriza, fare il contrario in Italia. La stragrande maggioranza, ripeto, e pro Siriza dei vostri messaggi fino a questo momento. Non è un sondaggio, ma è così. Iniziamo a sentire le opinioni di chi ha chiamato. Renato, dalla provincia di Ferrara. Prego, Renato. Buonasera Oscar, appunto sono Renato, io sono un elettore di destra, ma devo dire che ho gioito alla vittoria di Siriza, è per una serie di considerazioni. Innanzitutto, pronto? Sì, vai vai. Ah, mi scusi, soprattutto per una considerazione, questa, io lavoro in banca, guardi, e ho assistito delle volte a delle scene anche fra virgolette pietose di imprenditori che dicevano: io potrei lavorare ma non riesco perché non incasso, ed è diventata quasi una, come dire, un leitmotiv quello di dire: c'è la crisi, non ci sono soldi. Siras ha dato secondo me una speranza che noi europei, italiani in particolare, è da tempo che non abbiamo più, una speranza che in qualche modo, al di là del fatto contabile, è una speranza che dà forza e secondo me vigore. Renato, sono d'accordo con te, resta il fatto che poi i numeri sono i numeri, perché altrimenti, sai, la destra è stata spendaiola da noi, eh? Cioè, se uno spende poi non può lamentarsi e dire che la colpa è dei banchieri, questa è la mia opinione. Però sul fatto che abbia rimesso in piedi come speranza un bel po' di Grecia, quando i greci non ce l'avevano, ricordate che l'Europa impedì alla fine del 2011 a un presidente del Consiglio socialista greco di fare il referendum sulle misure che non adottate. Questo spiega perché i greci erano poi a questo punto senza speranza, perché si videro privati. Questa è una grande contraddizione dell'Europa e dell'Italia, che ha paura di far votare la gente, no? Come sul referendum delle pensioni: se abbiamo paura che la gente voti, chiaro che la gente poi si sfiducia, vede solo meno reddito. Se gli dai solo più tasse e meno reddito, la gente dice: che cacchio voto a fare? Tant'è che non hanno votato il 40% dei greci, neanche questa volta. Augusto da Verona, come la pensa Augusto? Ma caro dottor Giannini, ho sentito con piacere, specialmente le sue ultime frasi, mi sono piaciute moltissimo. Io le dico, sono anch'io di destra, ho fatto anche attività politica, condivido questa operazione, direi di moralità, di tante persone che non sono tutte schierate con la sinistra per la vittoria del partito di sinistra in Grecia, perché con questa operazione secondo me si sono superate le bandiere partitiche, ma si è arrivato agli interessi di Stato. Qualunque sia poi il risultato, ne vedremo sicuramente delle belle. Cioè lei dice non si può continuare ad andare avanti a temere il voto della gente, perché il voto della gente sono quelli che... Non c'è dubbio, solo certi pagliacci italiani ci hanno vietato di votare. Non è più possibile. Lo capisco. Bene, noi siamo andati avanti di governo tecnico in governo scelto dal capo dello Stato. Questo credo che sia un pezzo del motivo per cui alla fine Tsipras diventerà ancora più popolare. Poi vedremo i numeri, però questo non è da sottovalutare. Giorgio da Padova, come la pensa Giorgio? Sì, buonasera. Allora, io volevo puntualizzare un punto che è sempre molto importante capire. I tassi di interesse, come ben sappiamo, rappresentano un premio per il rischio. Sì. Ora, quando noi abbiamo creato l'euro, abbiamo abbassato i tassi in tutta Europa perché c'era la percezione di un rischio inferiore. Sì. Ma la percezione non corrispondeva alla realtà, perché sì, nei trattati c'è scritto che noi non possiamo aiutare gli altri stati. E che ognuno continua a rispondere del proprio debito, perché non lo mettiamo, esatto, in comune. Quindi alla fine è vero che i greci sono indebitati, anche gli italiani, anche in maniera erronea, ma è anche vero che i tedeschi hanno prestato i soldi a tutte queste persone, verissimo, qua, compresi verissimo, noi, verissimo, perché avevano un eccesso di liquidità, verissimo, e loro verissimo continuano ad avere un eccesso di liquidità. E diciamo che hanno preso tempi lunghi anche per gli interventi per consentire alle loro banche di rientrare esattamente di quelle posizioni, come sappiamo, quindi è proprio così. Ci sarà solamente, cioè la crisi del 2011 è stato solo un riallineamento massiccio, enorme, del premio per il rischio che era stato soffocato dall'entrata nell'euro. Quindi, corretto, noi dobbiamo renderci conto che prima o poi questi rischi esplodono perché sono interni al sistema. Lo so Giorgio, però questo lo diciamo noi che, diciamo così, vediamo i mercati e siamo appassionati di quello. È chiaro che quando poi si crea una situazione per la quale un quarto della gente è disoccupata e si è perso uno stock di ricchezza pari al 60%, diventa, le nostre parole rimbalzano. Quindi il problema è che la politica non ha avuto il tempo, il modo rapidamente di capire capire la situazione che si creava, perché l'euro è nato asimmetrico, per la ragione che dici tu, e perché non ha unito i mercati dei beni e dei servizi, perché se quelli non li unisci davvero, non consenti alla curva dei prezzi, alla produttività di allinearsi attraverso il principio di quasi comunicanti, quindi alla fine il rischio riesplode, perché il rischio era insito. Antonio da Torino, ancora, brevemente, Antonio, prego. Al di là della retorica ufficiale, sì, mi sembra che la situazione dell'unione monetaria sia questa: come un gruppo di commensali che vanno al ristorante e alla fine del pranzo nessuno vuole pagare il conto. Bravo, bravo Antonio. Giuliano da Roma, prego Giuliano. Buonasera Giannino. Sì. Anzi, calispera, visto che siamo ormai in contesto esatto, greco. Esatto. Io spero che la Grecia possa essere coerente con le proprie scelte ed essere una valida alternativa a un dialogo con l'Europa che, concepita solo così commercialmente, non funzionerà mai. Semplicemente questo. Quindi in realtà ti auguri anche tu che lui vada avanti. Vedremo quale sarà la risposta. Guardate, se passa però il programma di Tsipras, deve cambiare tutto, perché nel frattempo bisogna metterci un programma di cooperativo politico. Altrimenti l'Europa non regge. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.